tutti con 25 anni, perché io sono troppo un calcio con la barata, 2.20, 35, praticamente come la radio che sto usando adesso, e siccome che ce l'abbiamo ancora, e quindi... Dai, sono contento che voi siete appassionati, ve le curate, ve le tenete, ve le coccolate, dai, oltre che curate. Ok, lasciamo un attimino di bianco, se vuole entrare qualcuno, se no riprendi tu, Francesco. Buonasera Roberto, siamo sempre... Avanti Francesco. Ok, via. Dopo la collezione bisogna fare delle manutenzioni, ma le manutenzioni purtroppo sono gli studiatori d'unica, non si possono fare, bisogna portarle da un... da un addetto, diciamo, esperto a fare i lavori, ma solo che di quegli addetti lì mi pare che ce ne siano pochi in giro, se non sai proprio dove rivolgersi è un gran casino, capito? Però è bello che se uno bisogna fare i lavori da sé, che diciamo almeno è sicuro che fa i lavori, diciamo, come qualcuno comanda e come devono essere fatti. Ok, anche diciamo un professionista li fa, ma diciamo è perfetto, non è facile trovarli, devi sapere proprio dove li puoi trovare, dove li puoi tracciare via, e quelli ti fanno pagare diciamo un sacco di soldi perché lavorano a ora, quindi costano parecchio, magari ti costa più la riparazione che l'apparecchio, ma se l'amatore diciamo ci tiene diciamo non va alla spesa, quindi fa la riparazione che deve fare, perfetto. Ok, va bene, riprendi Claudio, a te cambia, va, posso fare, siamo rimasti in tre, a te Claudio, lo riprendi, a te cambia. Sì, questo è il grande, sì, ovviamente, sì, sono arrivati in tre, sì, ovviamente sono delle radio che necessitano di fare sì ogni tanto queste manutenzioni, soprattutto sono, quando rimangono molto ferme, capito, perché quindi ho sempre cercato di un po' di allinearli correttamente, perché quando si spostano come si fa scaldare, capito, necessitano molto di fare alcuni piccoli allineamenti, quelle radio, è un fattore di cuore, sì, che avevamo comprato nel mercato di Luggiato, abbiamo preso una cifra credo intorno ai 50 euro, perché è dalla Lucascole, una marca insomma che fa questa, questo tipo di radio, un grande da radio amatore ha fatto, e si sposta e fa una pompina della sintonia dell'aereo, perché insomma è messo in treno bastante in queste bottine, però c'era la banda della 27 proprio, praticamente me l'ha ricostruita perché era da me. Ci sei perso un pezzo, ci sei ancora Claudia? Tanto mi dicevo, sì, ti dicevo, allora vi abbiamo ricostruito questa copina, ne abbiamo ricostruito, era della ricezione della 27 questa radio, perché praticamente era incasinata, voleva rifatta nuovo e papà si è messo, me l'ha rifatta, adesso riceve perfettamente perché non riceveva i segnali intorno alla 27 mega, invece le porte non riceveva tutto, perché quella radio ha una manopola che ha praticamente delle marce, c'ha 1, 2, 3, 4, mi sa che c'ha 4 di queste marce, praticamente sono per ogni banda che l'ascolti, capito? Mancava solo questa bobina, era perfettamente funzionante, e il trasformatore abbiamo eliminato, che io l'abbiamo messo praticamente a 110 perché veniva alimentata a 220 come l'abbiamo comprata, e due lampadine mancavano, però adesso è perfetta, gli abbiamo verniciato il pannello, anche una bella radio, e proprio un bel ricevitore in decorso, e quello riceve anche la banda CP, e mi piace anche molto usarlo, mi piace trasportare la 27, e infatti c'è la casa, ho fatto fare questi lavori, però si dice che c'è un tecnico a Ipini che se la cava molto bene con la radio a valvole uranio, riprendi Roberto? Sì, Giovanni. Giovanni, non diciamo il cognome, è molto ma molto bravo, oltre che la diavola anche su altri tipi di cose, grande persona a livello tecnico, anche come si chiama teorico, oltre che saper riparare c'è anche delle condizioni tecniche. Ok, e voglio dire una cosa a Claudio, mi meraviglia, visto che sei tantissimo appassionato, soprattutto di ascolto, qua non ti sei mai preso un ricevitore magari performante, diciamo, di categoria? Uno di questi sarebbe la ricasse sotto a valvole, perché mi piacciono così a valvole a me, e mi ha detto che se c'erano le stesse figli questi antichi, ho detto che li fanno benissimo dall'America, sui pugni, e anche che si paga poco, però se così no, ma io fanno un ricevitore alla gabbanda, dai, tipo un Incom, un ICR 7000. La cosa non ne stavano vendendo uno un 7100 a 300 euro, questo era più che buono, ricevitore che ti fa da 25 a 2000, e tipo l'Incom 7000 faccio io, ed è un apparato che ti diverte anche, funziona a 220, lo attacchi direttamente, c'ha delle memorie, un paio di centinaia di memorie, per cui si può anche memorizzare i canali che ti interessano, più piacevoli, ed è divertente anche quello lì. Io sono molto molto appassionato di radioascolto, già l'hai visto la stazione mia, adesso ci sono stati degli aggiornamenti, quando capita te la faccio vedere. Ok, un'ultima cosa, Uranio me l'ha detto però non mi dimentico sempre, tu sei del versante, la tua antenna è dal versante, diciamo, verso chiamiamo San Lorenzo Uranio, o verso Sassari? No, allora io sono, diciamo, praticamente al centro storico, circa sul punto più alto, dai, sul punto proprio alto, ma diciamo una via di mezzo. E io ci ho aperto, diciamo, Chiaramonti lì, tutta la Gallura, e Pottieri, diciamo, la 131, mi dove, diciamo, in pratica è Burros e Cardiego, dove adesso Claudio, e via dicendo. Sassari ce l'ho un po' nascosto, però diciamo riesco a arrivare lo stesso, nonostante tutto. Vabbè, comunque sul punto strategico, diciamo, del paese, diciamo sul punto proprio panoramico del paese, sul punto centro storico, diciamo così, dai. Però Sassari ce l'ho un po' nascosto per via delle case e via dicendo. Tutto qua, ok. Ma dove c'era la discoteca, il Pink Point, di lì c'è? No, molto molto più in su di lì, molto più in su. Verso il castello tu sei? Esatto, se tu sai dove la chiesa parrocchiale, Immacolata Concezione, io sono, diciamo, 150-200 metri più avanti. A me meraviglia, perché usilo, io lo vedo, con le mie antenne lo vedo, cioè sta arrivando 9 quasi 10, ma dovreste arrivare molto ma molto più forte, è questo che mi meraviglia. Purtroppo, diciamo, come ti ho detto, sono ascolto io per l'estate, sono chiuso, capito, è per quello, ho ascoltato, diciamo, un centinaio di metri più avanti, a 150 è arrivato, diciamo, più forte ovviamente, perché, diciamo, la posizione per l'antenna era stata aperta e via, e quindi per il sito più forte. Io adesso, diciamo, questo apparecchio qua sto facendo liscio, anche perché questo apparecchio, diciamo, è un vecchissimo apparecchio, che avrà 35-40 anni, penso. Ed è, diciamo, dei primi tipi, diciamo, perché è meccanico, questo, diciamo, non rimane neppure. Quando lo spegni, diciamo, se ne va 15.000, diciamo, e quando lo riaccendi di nuovo, devi di nuovo, diciamo, tutto l'intervento, capito? Di quelle lì, è meccanico, in pratica, non c'è, diciamo, batteria di memoria, non c'è niente, quando lo spegni è così. Vabbè, comunque questa parte adesso uscendo circa con 50 watt di potenza, ok, vedi tu, a te il cambio. Sì, no, non è una critica, naturalmente, è una considerazione, perché l'audio da muro, che è totalmente coperto, perché c'è la collina del monte di Coso, del cementificio, lui mi arriva a 9 più 20, magari ci avrà qualche watt in più, però considerando che tu sei molto più vicino, sei in linea ottica, cosa del genere, mi meraviglia che con l'antenna non riesca a irradiare con lo stesso segnale di Claudio, lui arriva a 9 più 20, io l'ho sempre ascoltato, anche se lui stacca, almeno 9 più 10 arriva, tu invece stai arrivando quasi 9 più 10, e siamo molto più vicini e sicuramente molto più aperti rispetto a Claudio. Eppure, visto, a me Claudio mi sta arrivando 9.30, mi sta arrivando 9.30, mi sta arrivando, capito? Tu adesso non lo controllo, tu mi sta arrivando 9 o 9.10 qua mi sta arrivando, quindi come ti ho detto da prima, io sono aperto per Claudio, lì sono aperto per la 131, lì sono aperto, infatti vedo che la Tarrato lì sono aperto, vedo che le paleoliche in lontananza lì, via dicendo, mentre per Sassari, come ti ho detto, sono chiuso, quindi essendo, diciamo, magari più in alto, sarei arrivato, diciamo, con un segnale più maggiore, più, diciamo, più potente, capito? Mentre sono più in basso, ma se voi state, ad esempio, diciamo sotto, diciamo, la protezione del castello Malaspina, sarei arrivato, diciamo, più forte, perché lì è già già lì si recupera almeno cosa posso dire, una ventina di metri, non so, anche di più, o forse di meno, non lo so, comunque sia, essendo lì in quella posizione, diciamo, sotto il cartello si è arrivato più forte perché lì, diciamo, è più alto, capito, tutto lì. Non è importante, diciamo, se tu vedi il paese, diciamo, pare così, però, diciamo, come dico sempre io, l'apparenza ingannano, vabbè, comunque sia, l'importante, diciamo, è sentirci. Ok, perfetto, purtroppo è così, non è, diciamo, è questa qua in realtà, vabbè, tutto qua. Riprendi Claudio, a te cambio. Forse siamo tanto, Claudio ci sei, facciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare su questo canale, canale 10. Avanti, che vuole entrare? Sì, bel canale poi, Chi sei? Cristian. Beh, ogni tanto appare e scompare Cristian. Stavo prendendo un po' di vino a casa. Sta rientrando Santiago quasi 9, Radio 5. No, però lo sento bene la voce io, a Claudio. Non a Claudio, a Francesco, Claudio è a Muros. Anche a Muros lo sento, io lo sento anche da casa con l'antennino. C'è un bel segnale, considerando che è nascosto, io so dove abita, ho visto l'antenna, non c'è un'antenna altissima, eppure cacchio arriva, che è una meraviglia qua. Che non è che non arriva una meraviglia, a me non sento di certo, però non arriva. Ok, c'è anche Francesco ascolta la Patrizia. Per niente, sento qualcuno che diciamo sta diciamo volando sul fondo, però negativo, del tutto incomprensibile, nulla da fare. Comunque se non mi sente lo saluto cordialmente con la buonasera, il ben sentito, però negativo può arrivare evidentemente in questa posizione, diciamo negativa. Ehi, sì, si è ascoltato Francesco. Aspetta un attimo, chi l'ha ascoltato a Francesco? Ho ascoltato basso basso, perché sono in mezzo ai palazzi e in mezzo agli alberi. Come esco dalla via lo sento meglio. Ehi, hai sentito Francesco, ti ha ascoltato basso basso, insomma in mezzo agli alberi. A me mi ascolti bene, Cristian? Sta per 9.30 Radio 5. Come? 9.30 Radio 5, a palla. Ok, vediamo se c'è Antonio, che è quello piccolino, Antonio. Avanti, Antonio. Buonasera a tutti, buonasera. Già ci sono già. Allora, Uranio, mi senti? Già ti sento, vieni avanti, buonasera. Capo, qua c'è un Santiago di 8, ti sento bene comunque. Ok, tu invece sei bassissimo, hai tiki positivi, hai tiki positivi, di segnale sei 1 con picchi a 5 e di radio sei, diciamo, la radio di 3, ok? Tutto qua, te cambio. Come al sattolo, capa, strano. Ma che senti lì, Robben, ma sei per il mio segnale? Il segnale è un po' più basso del suo, ma col grande sì. Con i picchi già sale, però senza modulare c'è 9+20. Con i picchi arrivi 9+30, diciamo era un po' più forte il segnale, solitamente. Oh, io non le ci comprendi. Vado a vedere allora. Sì, arrivi 9+30 quando parli, mentre prima eri quasi 9.30 senza modulazione. No, ero sempre così, Roberto. All'incirca era così il segnale. Non è possibile. Stamattina sono venuto dalle tue parti, c'era tuo padre. Ero in giro io. E infatti ho detto dove la cosa, per Paolo. Ho fatto vedere la macchina, è andato a passare per vedere questo problemino che c'ha. Il radiatore? Sì, quello dell'aria. Ma scusami un attimino, ma bisogna togliere tutto il cruscotto, ovvero? Allora, prima di tutto bisogna verificare se è bucato effettivamente il radiatore come penso, però molte volte non è detto, c'è una specie di rubinetto, noi lo chiamiamo, un distributore di cosa, che ci sono due tubi per distribuire, che prende l'acqua dal riscaldamento di fuori del motore e lo porta dentro, c'è una specie di rubinetto. Quello lì molte volte si rompe perché è in plastica, con la pressione, col caldo, eccetera, eccetera, è capitato, se no bisogna smantellarne tutta la macchina, è un travaglio. Anche questo cosa lo vuole fare? Come? Questo lo vuole fare, perché la linea è rotta dalla punta. Se la rifai, no, io lo riparo le macchine, facciamo anche questi lavori. E perché io non appunto c'è una cosa di radiazione interna dell'aria. Hai detto problemi dell'acqua, ma proprio c'è l'aria condizionata o tuo normale? L'aria condizionata. E che problema ti fa? Ma non ti fa fare la macchina? Ma io mi fa benissimo. Mi esce vapore direttamente dal cruscotto, perché è spaccato il radiatore. E ti sento un po' male, ho capito dal cruscotto, però non ho capito se il radiatore dell'acqua dell'interno dell'abitacolo o che cosa. C'è un radiatorino sotto il cruscotto, piccolino, che si collega all'impianto, all'impianto. Certo, ma c'è rotto quello. Quello spaccato io, bucato. E ripeto, come anche cosa, appunto, di Pierpaolo, il padre di Antonio, la stessa cosa. Capita, ne faccio decine di queste macchine ed è molto complicato da smontare, perché viene male, devi togliere il cruscotto, airbag, manubri, volante, eccetera, eccetera. È un lavoro un po' faticoso, infatti molte volte io consiglio, si chiude, si taglia quel passaggio lì da fuori e non te la romperti le scatole. Tanto se devi fare aria fredda, per disbrinare metti l'aria fredda, non c'è bisogno di utilizzare l'aria a casa. Poi no, c'è qualcuno che dice no, d'inverno fa freddo e mi voglio mettere il riscaldamento. Guarda, forse per me l'avrei già eliminato, se no non so, devo metterci la mania. Che avanti? Io sono. Tu sì? Ma è un altro, non ho dato segnale, ho sentito. Sì, questo qua hai sentito. Dia, perché? Perché ho cambiato. E prima cambi di segnale da 9.20 a 9.30. No, ma adesso com'è il segnale? 9.30 a pieno. Anche di più. Più o meno così, dai, intorno a 9.30. Gappa, gappa. Uranio, come ne senti adesso? Adesso c'è un tasto di segnale, adesso mi sta arrivando con un segnale di 6 e una rete di 4, ok, fate il cambio. Gappa, gappa, no, adesso già va bene, dai. Più piccolino sono sempre io, ve ne approfittate, cazzo. A me io faccio quello dei ragazzi che se lo mando a casa, dai. Saluti a tutti. Ehi, ciao Cristo, ben sentito. Cerca di sistemarti questa antenna, la volta per tutti, così ti ascoltiamo bene bene, senza difficoltà. Ok, avanti, ti faccio salutare da cosa, da Antonio. Avanti Antonio. Ciao, ciao Cristo, ci sentiamo. Amore, posso andare che è sempre bello, gai. Io allora lo supero da te. Cosa, Francesco? Non ho capito cosa. Il segnale mio è il 9, lo supera dalle tue parti. Sì, te l'ho detto, tu stai arrivando qua, 9.10. No, 9 con picchi positivi a 9.10, caro. È più o meno lo stesso segnale tuo, allora. Che tu qua sei con i picchi arrivi 9 più 10. A tu quando ti arriva lui, Urano? Ah, mi arriva a 7. E quindi ricevi bene tu. Ammazzo. Chi è? Ciao Roberto, ciao Antonio, ciao Francesco Marino da Ottava. Urani arriva a Santiago di Ottava. Ok, scusate, era solo per un saluto. Ciao Roberto, di nuovo, ciao Antonio, ciao Francesco, avanti Antonio. Cappa, salutoni Marino, salutoni, bene. Cappa, salutoni, bene, ti arrivo lì a Ottava. 9.15. Hola. E che sta succedendo? Ciao Marino, ben sentito, sto segnale 9 più 15, radio 5, dammi un rapporto anche a me, Ottavo. 9.15, sempre sotto segnale, vabbè, sempre bello, una bella modulazione, segnale ottimo. Ok, vediamo quanto arriva Antonio a te. Quanto mi dà? Francesco, avanti per controllo. Ok, vieni. Non so se è stato a me, comunque, mi pare che sì, Marino, noi ci siamo sentiti, mi pare, sacco, ok, comunque saluto il cordiale, ben sentito e niente, tutto qua, da Ottavo, mi pare che sì, ok, ho capito, perfetto, dalla zona di Vulcano lì, benissimo, tu qua stai arrivando un segnale di sì, mi pare, una cosa genere, una rete di 4, ok, tutto qua, ok, cambio. Ok, Francesco, il tuo segnale è Santiago 8, Santiago 8 è un radio di 4, ti posso dare, benissimo, io sono già lo so per salutarvi, ok, Antonio riprendi, io chiudo, se vi ho sentito sto per saluto, dai, ciao a tutti, alla prossima, avanti Antonio. Ciao, ciao Maria, ce la sentiamo, Maria adesso va meglio, perché mi sono accorto che mi sia abbassato in potenza, e se è stato il PL non ha abitato bene. Sì, guarda, è come Roberto, sì, ho... Antonio, 9.15, 9.15, una radio super 5. Gappa, gappa, già andare. Che riprendi Roberto per me come ti dai? Ok, ciao Marino, ci sentiamo alle prossime, ok, vai Francesco per Marino. Sì, ok, ciao Marino, allora, buon correttivo e buon proseguimento di serata e salutoni al tuo rispettivo Correa, ok, ci sentiamo. Claudio pare sia sparito, non so, Claudio? Uranio, sì, ci sono ancora, mi sono allontanato perché ha filato il telefono poco fa, quindi ho dovuto lasciare l'apparato in cornice, sì, anch'io saluto a Marino, sì, ti stavo ascoltando, sì, ok, un super saluto anch'io che devo andare a fare carico batteria, ho approfittato adesso che mi rilanciate per salutarvi, saluto anche Antonio Pombolo che è entrato adesso frequenza, Antonio, buonasera, ben sentito, oggi mi sta arrivando Santiago 8, Radio 5 qui a Muros, quindi hai migliorato di molto, Antonio, hai migliorato rispetto all'altro giorno che ti ascoltavo Santiago 5, sei salito oggi, oggi ti ascolto bene, Antonio, ti ando bene oggi. Che dire, io adesso qui ero, vi devo lasciare, vi super saluto a te, Francesco, Urano Baumisilo e Roberto Quadrato, Antonio Popolo e Marino e tutti gli eventuali amici d'ascolto, passo un QRTSK, ciao a tutti e buona serata a tutti, alle prossime riprendi, cambio per Roberto. Scusa Roberto, ciao Claudio, tutto ricambiato al 100%, riprendi Roberto, quello di per me, ciao. Ciao Claudio, ben sentito, grazie del QSO, dai, ci sentiamo se coincide in altre occasioni, ciao, saluto a tutti a casa. Avanti Antonio. Ciao Marino, ciao Riccardo. Che cavolo sta succedendo? Ora. Che avanti che vuole entrare? Ora ho fatto giù. Dimmi una cosa, Francesco. Dimmi, avanti. Dov'è il punto più lontano che dico che parli normalmente, non in propagazione, e diciamo dove sei arrivato tu, dopo Zieri, quelle zone lì, dove arrivi? Dopo anche a Sanguecco, diciamo sempre, arrivo lì, diciamo, arrivo tranquillamente. Chiaramente sono adesso un giorno di fronte, quindi tre volte arriverò a fondo scala quasi. Ok, dopo dipende le posizioni, diciamo, bisogna vedere. Io sono arrivato anche, diciamo, anche a Forza Maggiore, quelle zone lì, capito, hai. In pratica, diciamo, faccio una bella estensione, diciamo, da qua dalla mia stazione. Ok, bisogna vedere, ci sono punti dove arrivo e punti che, diciamo, arrivo fatto o dove non arrivo pure niente, bisogna vedere. Non lo so, bisogna vedere quello, ok, da te il cambio. A zone tipo, ma come quelle parti lì riesci ad arrivare? Sì. E oltre tipo invece Oristano? Oristano, senso, penso di sì. Perché Oristano è molto lontano, vabbè, io sono coperto. Capitato una volta basso, riuscivo a tirarlo un pochino fuori, perché era una giornata che non c'era QRM. Utili già ci ho parlato qualche volta, adesso che metto l'altra antenna vediamo un pochettino dove andiamo a finire. Perché che antenna hai adesso? No, adesso c'ho la Mantova 1, funziona più che bene, è un po' rumorosa come cosa, perché ti porta un po' di mondezza, per cui io il QRM ce l'ho minimo a 6 qua, non esiste averlo più basso, però ascolto bene, diciamo, ma gli altri che segnali lo ascoltano a 7, io lo ascolto a 9 come cosa, intensità, però quando sono segnali bassi, non riesco a tirarli fuori e per questo metto un altro tipo di antenna e col motore in modo che riesca a orientarmi un po' meglio. Col motore allora metti direttiva? Eia. Beh, la direttiva è bellissima, mi piace fare con la direttiva. Solo con la direttiva ci vuole spazio, ci vuole un sacco di lavoro a piazzarla, poi costa più il motore che l'antenna, è un casino, capito? Ci vuole un sacco di soldi per la direttiva. Non so poi tu che direttiva piatti, diciamo, di quella rete equatoriale, perché deve fare di quelle per la CP. Ok, vabbè, però diciamo lì ci vuole il motore diciamo ti accosta più l'antenna, dammi conferma se è così, io ben immagino che sia così, a te cambi. Sì, purtroppo l'antenna per la 27 la direttiva è molto molto grande, sono 5 metri di apertura per 5 metri più o meno di lunghezza, sono 4 a 4 elementi più o meno, è come che c'è un quadrato di 5 metri per 5 come dimensione, è abbastanza molto molto molto grande come antenna, un po' meno forse di 5, però è sempre un'antenna ingombrante. L'idea mia era metterla in verticale, così fare delle prove, però ci vuole un palo che non sia conduttivo, cioè utilizzare PVC oppure in cosa, in resina, però purtroppo devi mettere un palo molto molto grosso, e per il momento la metterò in orizzontale e poi si vedrà più avanti cosa fare. Una volta trovato il giusto compromesso magari la metto in verticale e fissa, però ne ha avuto un'altra, un altro elemento di la 27, poi l'ho data a un amico carissimo e lui ce l'ha accorciata per le crepette radioamatoriali. Però ti posso dire, ti ripeti, perché non senti molto QRM, molto ti orienti in quella direzione lì dove vuoi andare e ti esplode tutto il disturbo che c'è in giro. Per dire, se c'è propagazione, molte volte quando ci sono sovrapposizioni di nazioni, per dire c'è la Spagna, c'è la Germania, c'è la Francia, succede un macello, mentre tu ti orienti direttamente in quella direzione, è molto direttiva, nel senso più elementi ci sono più stringi la cosa, l'arco di radiazione, per cui riesci a tirare fuori anche segnali quando ce ne sono altre che c'è propagazione troppo ampia. Ok, di nuovo a te Francesco, io ancora qualche minuto e poi vi saluto. Avanti Francesco. E ok, prima per come la pensione del tipo ci vuole sempre il rotore, è inutile, perché se la monti fissa, diciamo, fissa e basta, no? Dove arrivi arrivi, dove non arrivi magari arrivi passo e dove magari non arrivi per niente, bisogna vedere quello, bisogna vedere, sono tante cose, ok, perfetto, io non so spiegare, diciamo, di meglio, perché non è che sia, diciamo, un esperto di queste cose, ma diciamo mi piace molto, però diciamo un po' mi arrangio, diciamo, a capire qualcosa, niente di più, ok, va bene. Detto questo, io qua chiudo e faccio il correttivo perché cambio zona da qua dalla stazione, stacco su Lucia e mi guardo qualche specialista. Ok, va bene, perfetto, da questo momento per me correttivo. Niente, salutoni a tutti, ciao Claudio, ci sei ancora, ciao Roberto, ci vediamo le prossime, ciao a tutti e a chi. Scusate, a chi non mi sto ricordando, ok, perfetto, per me correttivi, saluto un cordiale a tutti e buonasera ancora. Buon proseguimento di serata, ciao ciao, per me correttivi. Sì, la riprendo io, dai. Ciao Francesco, ben sentito, grazie del QSO, anche io interrompo adesso, a parte che ho anche fame, ti saluto e ci sentiamo in prossime occasioni. Vai Antonio, Antonio mi pare che sia salutato, vabbè, saluto a tutti qua, eventuali amici qua in ascolto su canale 10, correttivi da parte mia, ciao ciao a tutti. Gabba, ciao Robè, ci risentiamo. Gabba, dai, io vi saluto anche a tutti. Non capisco cosa stia succedendo. Ora. Domani salgo su a controllarla, mi ti rendi di coglione. Antenna. Ora. Vai, buonanotte a tutti se ci siete!